ora in onda, qua e là, tra una novità e l'altra. Da Angelo Arduino e Mario Lombardo, una felice giornata ai nostri radioascoltatori. Come sempre, un saluto particolare va ai nostri connazionali che ci seguono in ogni parte del mondo sul sito www.crmpradio.it. Oggi abbiamo in studio, e lo ringraziamo per questo, il professor Vittorio Sgarbi, nonché l'avvocato Francesco Calabrese. Ci raggiungerà più tardi il dottor Emanuele Cusimano, candidato anche lui a sindaco di Cefalù, e avremo anche l'avvocato Stefano Polizzotto, candidato sindaco di Castelbuono, sostenuto dal Movimento Castelbuono Libero, e dovrebbe raggiungerci anche Totò Marsala, presidente del basket Zannella, che quest'anno è candidato per la partecipazione ai playoff del campionato di basket. Vorrei iniziare con il professore Vittorio Sgarbi. Tra le tante candidature che le sono state offerte, io ho partecipato un po' alla sua presentazione al Cipalas, lei ha scelto Cefalù. Qual è questo motivo, professore Sgarbi? Questo ci lusinga comunque, in ogni caso, perché Cefalù è intanto città massima, e quindi avere un personaggio di grosso spessore è una cosa pure interessante. Intanto sono stati i primi a chiedermelo alcuni cittadini di Cefalù, come al di là della politica. Il primo che me l'ha chiesto è il vice sindaco Corsello, che è stato a pranzo con me e con molta insistenza ha indicato una necessità. Perché io gli ho detto: ma tu sei vice sindaco, un altro sindaco? Dice: ma cosa vuoi che sia, insomma, anche l'altro sindaco sarà con te. A quel punto, come mi è accaduto nel caso di Salemi, mi hanno rassicurato sul fatto che non andavo a creare disturbo a aree politiche che in qualche modo non vedo come nemiche, ma vedo la politica come l'esaltazione di quello che una città è, e quindi io non sento gli antagonisti, e pensavo che tutti fossero concordi nella necessità di avere una figura con caratteristiche che io ho dimostrato molto efficienti a Salemi, proprio in Sicilia, nella non certezza che io mi sarei applicato in quel modo, come invece ho fatto. E se quell'esperienza è arrivata alla fine, non si deve né ai cittadini né alla mia cattiva volontà, ma alla violenza di forze dell'ordine deviate che hanno agito contro la legge, stabilendo una mafiosità che non esiste a Salemi e di cui non ho visto traccia. E anche ieri ho ribadito che non è che io fossi ingenuo, non c'era proprio. Allora, se lei subisce un furto in casa, ha due buone ragioni: di denunciarlo se le hanno rubato una cosa, ma se lei dice che le hanno rubato una cosa che non c'era, lei è il criminale. E questo è avvenuto a Salemi. A questo punto Corsello, è una giornata molto desiderata al teatro di Cefalù con tante persone e un solo dissidente che si chiama, mi pare, Manzo, che ha detto che ho detto delle parolacce di cui mi scuso, ma che erano pure battute, e addirittura irritato perché si erano divertiti i cefaludesi, per cui era una polemica, senza fondamento. Con a sinistra Corsello e a destra il sindaco Guercio hanno ulteriormente ribadito questa candidatura, quindi io ho immaginato che tutti fossero d'accordo. Sono antico amico di Micichè, sono amico della Vicari, tutti con me, e questa cosa mi ha seguito fino al punto di farmi pensare che sarebbe stato un dispetto o una mancanza di riguardo dire di no se avessi avuto possibilità di dire di sì, e il mio no era legato a un dato preciso, che ero già sindaco. Quando ho smesso di esserlo mi sono liberato e quindi immaginavo che tutti fossero contenti. Invece è avvenuto che Guercio, l'attuale sindaco, era talmente dalla mia parte, che dovrò dirlo a quelli che mi ascoltano, che nella evidentemente natura ipocrita della politica mi ha chiesto di fare l'assessore della sua amministrazione. Ora, mi pare strano che adesso dica che io sono un colonizzatore o che sono uno straniero, lo sapeva anche prima. Quindi da un lato me lo chiede il vice sindaco, dall'altro lato il sindaco mi chiede prima della fine del suo mandato di fare il suo assessore. Io do prova della mia attenzione scoprendo e rivelando, senza polemiche che sono pure nate, non capisco perché, un bellissimo quadro che è nel vostro museo. Comincio a parlare di Cefalù in televisione, a Canale 5, sui giornali, dimostrando che sono assolutamente disponibile anche a dare un contributo non da sindaco, e quando finalmente mi dichiaro disponibile, corrispondendo a una richiesta così affettuosa delle parti politiche e non politiche della città, si scopre che, ma forse E la cosa che io più di tutti voglio combattere, cioè la leggenda negativa che negli ultimi vent'anni viene ancora usata a danno della Sicilia, cioè che vi sia la mafia ogni angolo, ci sarà ovviamente, ci sono dei mafiosi, ma non c'è più il potere della mafia, così come ci sono dei nazisti, ma non c'è più il nazismo. A questo punto usare quell'arma da parte di Micichè o della Vicari, come se le vicende di Salemi potessero diventare pericolose anche per Cefalù, mi è sembrata una tale vigliaccata che io ho detto, ma mi sembra che vi sbagliate. E senza che io decidessi autonomamente di andare a Tarquinia, ad Agrigento, a Erice, alle Tremiti, a Parma, a Lucca, in mille altri luoghi che mi hanno variamente chiesto la disponibilità alla candidatura, ho detto no, ma io sono disponibile. A quel punto dal cielo è calato un mio amico e collega che sembra il mio identikit, con una, come se la polizia appunto avesse l'identikit e sbagliasse uomo, che è uno del nord, che è stato vicino all'area del centrodestra, che è stato assessore a Milano e che è stato cacciato dalla Moratti. Quello sono io. No, si chiama Croci. E questo identikit che corrisponde a Croci è quello del nome di una persona che, per avere una moglie di Cefalù, che io fortunatamente non ho, non perché sia fortunato non avere una moglie, perché è meglio non avere moglie di nessun luogo, soltanto per questa buona... Se non è sposato, mai dire mai. Beh, insomma, tendenzialmente però, temo che non sarà di Cefalù mia moglie, quindi io ho un requisito in meno rispetto a Croci, il quale poi ha parlato con me, ha convenuto che il programma poteva essere molto comune, e quindi nessuna polemica neanche con lui, e però imposto da Micichè, il quale ha stabilito che doveva essere il punto di mediazione con il Popolo della Libertà, è diventato il candidato che quell'area ha indicato. Quindi a questo punto Corsello ha dichiarato che non vuole uno che non sia di Cefalù, Guercio ha fatto la sua lista, la Vicari e Micichè hanno fatto la lista con Croci. Mi chiedo, ma sono gli stessi di due mesi fa? Perché prima non ho tutti con me e adesso improvvisamente fanno delle liste indicando nomi, uno il proprio, posso capirlo, umanamente Guercio posso capirlo, ma dall'altra parte faccio fatica a capire che il partito di Dell'Utri, dopo la vicenda gloriosa in fondo di una chiarezza voluta dalla Cassazione sulle false accuse di mafia che vanno dimostrate nei fatti e non nelle teorie, certo, non come dire uno quello è Finocchio, cioè bisogna che uno dica una cosa vera, non una diffamazione, che quel partito chieda a me di non candidarmi per la preoccupazione che un'accusa che io non ho e che contro il paese di Salemi debba essere un'accusa che mi mette, come dire, in una posizione di stallo, perché altrimenti potrebbe la cosa non essere, è una forma di ipocrisia e di impudicizia particolarmente gravi, che soprattutto mostra che il mio principale candidato, insieme a quelli che ho detto, che era l'attuale marito della Vicari, che mi offrì pizze a non finire con grande affetto, e ogni pizza era questi sono i voti che tu avrai, tu sarai con noi, mi sia poi arrivato a dire ma sai, forse non è opportuno. Come non è opportuno? Io non ho niente di cui vergognarmi, ho fatto per la Sicilia cose importanti, non soltanto per Salemi, le ho fatte a Piazza Armenia, le ho fatte a Noto, le ho fatte con il presidente Lombardo quando è accaduto che dovessi dare il mio contributo, ho fatto venire Napolitano per l'Unità d'Italia a Salemi, e quindi non capisco perché dovrei fare un passo indietro a fronte di quelli che me l'hanno chiesto. Alla loro domanda sono nelle condizioni di rispondere sì e ho risposto sì. Se poi mi dimostrano che la mia funzione non è quella di sindaco ma può essere altra, ho detto posso essere pronto a discutere. Lo stesso Farinella, che loro guardano come un grande lettore ma come una persona da cui bisogna guardarsi in qualche misura per chissà quali rischi, a un certo punto anche lui preoccupato ha detto ma tu potresti fare il sindaco delle Madonie, il presidente delle Madonie. Benissimo che sia, intanto faremo a Cefalù il Festival delle Madonie, un grande festival che oscurerà Spoleto, Taormina e qualunque altra cosa, che sulle belle città delle Madonie avrà tanti luoghi, sarà l'unico festival che avrà invece che una sola sede, 5 o 6 sedi in cui fare manifestazioni di cui parlavo poc'anzi mentre stavamo iniziando la trasmissione con il grande regista, già sovrintendente dello Sferisterio di Macerata, Pierluigi Pizzi. Quindi diciamo io sono già partito. In questa novità che potrebbe essere il Festival delle Madonie, ecco una nuova idea di Sgarbi. E io ho visto nel dépliant partito della rivoluzione. Ecco, perché partito della rivoluzione? Perché intende cambiare le cose? Beh, questo... c'è qualche motivazione effettiva? La rivoluzione io l'ho fatta dove sono stato sindaco 20 anni fa a San Severino, e la città è diventata da agricola turistica con uno lancio in avanti molto forte. L'ho fatta a Salemi, dove una città che era chiamata mafiosa per i cugini Salvo e che oggi si vuole richiamare ancora mafiosa per nostalgia da parte di qualche magistrato o prefetto, è diventata il luogo dove tutti sono arrivati da ogni parte del mondo e non c'è un giornale anche della Cambogia che non abbia raccontato quello che stavamo facendo. E in tutto questo, ieri Lino Aguecci ha raccontato che suo cognato o suo genero magistrato, che non era un mio simpatizzante, è andato a Salemi, ha visto il Museo della Mafia e lui da magistrato lo ha guardato con molta ammirazione, senza pregiudizi e riconoscendo l'importanza di quell'iniziativa, di quelle di cui si è più parlato, visto da 500.000 persone, perché l'ho portato da Salemi alla Biennale di Venezia, facendolo vedere a una quantità straordinaria di persone oltre a quelle che sono venute a Salemi. Ma la rivoluzione che negli atti e nei fatti è stata compiuta è anche una specie di paradosso, perché la rivoluzione non può essere un partito. La rivoluzione è un momento, è un passaggio, è una cosa che ha un impulso e poi finisce. E quindi mi sembrava che chiamare finalmente con una parola che non è mai stata usata per un partito, partito della rivoluzione, volesse dire noi non siamo una cosa, non siamo un cartello elettorale, siamo il nostro muoverci per fare e cambiare cose che sono sbagliate, non cambiare il mondo, ma cambiare alcune cose. E siccome la mia sensazione, così come quando mi dissero tutti sono con te a Salemi, invece ero uno contro tutti, anche qua mi ritrovo, senza aver fatto niente e aver chiesto nulla, uno contro tutti, la volontà di dimostrare che un partito che non esiste, che è la rivoluzione, riuscirà a dimostrare che quelli che esistono sono dei falsi partiti o partiti fatti su presunzioni e poteri che si consolidano attraverso delle forme di prepotenza, cioè noi ti imponiamo un candidato, noi indichiamo quella persona, si chiede ai cittadini cos'è che ritengono, il voto serve per questo, ma la rivoluzione serve per sconvolgere delle aree di partito che confidano di essere non per quello che fanno, ma perché uno dice noi siamo il PP, il PD, il PID, l'UDC, Forza Italia, che non c'è più, Popolo della Libertà, non tutte astrazioni. Posso dire per esempio che, tanto perché lo sappia, il partito del sindaco attuale è il partito di una persona che io ho segnalato a Berlusconi perché fosse ministro dell'agricoltura ed è diventato ministro dell'agricoltura, e i rapporti fra Romano e me, Romano che io non credo affatto mafioso, ma anche lui, allora potremmo dire che Guercio è candidato con il partito di uno imputato per mafia. Che facciamo? Non lo mandiamo avanti? Siccome io non credo che anche la mafiosità di Romano sia una cosa su cui occorre come dire, accettare una specie di diktat di chi lo ha incriminato a torto, i miei rapporti con il capo del partito di Guercio sono di gran lunga più come dire, evoluti e pieni di quelli che siano. Infatti ieri ho parlato con Romano, che quasi ignorava che fosse Guercio. Allora ho parlato con Avanzi. Avanzi è un mio vecchio amico e anche lui era quasi imbarazzato di dire ma noi sosterremo anche te, però non possiamo impedire. Avanti, quindi Avanti, il sì. Presidente della provincia. Avanti, il Presidente della provincia, che ha parlato con me e nel suo manifestare un qualche imbarazzo ho detto beh, d'altra parte il nostro candidato ci teneva tanto, ma insomma, come dire, anche lì il partito non è quello in cui tu credi, ma il partito è una specie di garanzia per cui Avanti dice sì, io ti sostengo anche volentieri, però intanto tanto cerchiamo di parlare. Quindi tutto questo dimostra come la rivoluzione, che è un partito che non c'è, diventa un partito della realtà rispetto ai partiti della finzione. Ecco, sì, ecco, questo è il senso della parola rivoluzione. Quindi, intanto mi consenta di salutare l'avvocato Stefano Polizzotto, candidato sindaco di Castelbuono, sostenuto dal movimento Castelbuono Libera, e mi consenta anche di salutare Totò Marsala, presidente del Basket Zannella di Cefalù. La sua squadra parteciperà ai playoff e quindi oggi ce ne parlerà qui in studio subito dopo. Bene, qui con noi, dicevamo, c'è anche Francesco Calabrese. Ieri è venuto fuori, io non lo sapevo Francesco, quando c'è stata questa diciamo assemblea al Sea Palace, è venuto fuori l'intervento di Francesco Calabrese che ha detto bisogna svegliare la città dal torpore in cui si trova, e poi via via ha anche detto io sono disposto a fare dei passi indietro per appoggiare Vittorio Sgarbi. Evidentemente com'è nata questa questo apporto a Sgarbi? Allora, intanto buongiorno tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Devo dire che la nostra come gruppo è stata una decisione molto molto meditata, intanto per una serie di considerazioni e poc'anzi la tutte evidenziate il professore Sgarbi. Il nostro modo di fare politica da quando ci siamo messi in campo, e chi mi conosce lo sa, è stato quello di essere impegnato nelle cose da fare per Cefalù al di là delle appartenenze politiche, quindi mi sta molto vicino il pensiero di Vittorio Sgarbi in merito alla rivoluzione. È uno slogan molto efficace che punta intanto a un cambiamento culturale, che è la cosa sulla quale noi abbiamo sempre puntato come gruppo UDC a Cefalù. Perché questa decisione? Perché evidentemente uno, ce lo impone la legge elettorale, quello di andare a guardare con molta più attenzione il ruolo dei candidati e di coloro i quali liste o uomini o donne sostengono appunto i candidati. C'è una legge elettorale che impone a un certo punto di fare delle analisi e guardare un attimino i giochi in campo, perché non basta soltanto vincere con questa legge elettorale. Con questa legge elettorale è sì importante vincere, ma ancora molto più importante governare. E a questo punto abbiamo fatto noi una meditazione che ci ha portato a dire che nello stato in cui si trova attualmente la nostra città, con 7-8 candidati, possibilmente fra qualche ora ne nascerà un altro, cosa vogliamo noi di Cefalù? O ne nasce o viene meno. Allora dico, cosa vogliamo fare? Intanto Francesco, consentimi di salutare Peppe Barranco, che è già assessore cefaludese uscente, che è qui con te. Dico, cosa vogliamo fare noi a Cefalù? Allora, vogliamo guardarci tutti in faccia? Vogliamo essere seri? Vogliamo dire alla città che non basta soltanto alimentare gli odi, le fazioni tra le famiglie, tra i partiti, tra le frange dei vari partiti. Occorre a un certo punto avere tutti assieme un bagno di umiltà e dire cosa io posso dare per la mia città. Bene, io penso che io e il mio gruppo possiamo dare tanto modestamente al progetto di Vittorio Sgarbi, intanto perché siamo convinti che per uscire dalla mediocrità, dal torpore in cui si trova Cefalù, abbiamo bisogno di volare alto. L'ho detto ieri sera. Per noi volare alto significa anche dare fiducia alla persona, alla personalità di Vittorio Sgarbi, che come ho detto ieri sera sarà un sindaco ministro degli esteri per la città di Cefalù, cioè un sindaco che già per il fatto stesso di essere Vittorio Sgarbi può trasportare in tutto il nostro panorama, non solo nazionale ma internazionale, il nome di Cefalù, e far sì che Cefalù diventi un collettore di tutte quelle forze sane, di tutte quelle forze imprenditoriali, turistiche, sociali, che vedono in Cefalù non soltanto la perla del Tirreno sbiadita, ma una perla del Tirreno che vuole risplendere nuovamente. È chiaro che tutto questo progetto deve anche passare attraverso il buon governo, e quindi occorre che, così come abbiamo avuto modo di affrontare già con Vittorio Sgarbi, dare alla città una governabilità che passa attraverso dei punti programmatici che proprio ieri sera sono stati annunciati in un bellissimo video che ha esordito rispetto alla presentazione del professore Sgarbi, e che, se mi consenti, posso brevemente annunziare. Parliamo di risanamento economico-finanziario, parliamo di riforma della macchina amministrativa, parliamo di rilancio e di crescita della nostra città, parliamo della riorganizzazione del territorio comunale per far sì che tutti i cittadini siano partecipi alla vita amministrativa della città, e poi, ultimo ma non ultimo, recupero del ruolo, del prestigio, della credibilità della nostra città, credibilità che nell'arco di questi decenni purtroppo, ahi noi, è stata messa sotto i piedi. Ci sono altri comuni, e faccio un po' di campanilismo per la mia città, che ci hanno superati in tutto. Non è possibile che Cefalù venga dietro a qualche altra città. Cefalù è Cefalù, deve recuperare questo prestigio, e secondo noi l'uomo che riesce a tradurre tutto quello che ho detto è proprio la persona di Vittorio Sgarbi. Ecco perché io ho detto, rispetto a questo progetto ambizioso nel quale credo e crediamo tutti noi, io sono disponibile a fare un passo indietro purché sia questo il progetto. Ecco, molto chiaro. E Sgarbi ha già avuto modo di vedere Cefalù ora in quest'ultimo periodo, che ha frequentato con maggiore presenza, e avrà notato le luci e le ombre che ci sono a Cefalù. Sì, beh, devo dire, sono ottimista, nel senso che ho notato più luci che ombre, perché vedendo la Salemi, di cui ho detto il bene che è possibile dire e la rivoluzione che è stata fatta e il male che le vogliono i siciliani e le autorità che l'hanno umiliata per la seconda volta, due volte è stata in alto con Garibaldi e con me, e due volte è stata in basso con i cugini Salvo e con l'attuale prefetto, che sono omologhe forze del male. E quindi, arrivando qua, io per esempio, dovete sapere che quando stabilì la nuova illuminazione per Salemi, mandai i miei assessori a studiare quella di Cefalù, perché avevano quelle luci calde rispetto a quelle infette e bianche al neon che rendono tutti morti, che faticarono i salemitani a riconoscere le più opportune. Poi ho visto le attività commerciali, i ristoranti, la vivacità, per cui venendo da un luogo di fantasmi come Salemi, ho visto molte più luci che ombre e molta maggior disponibilità e possibilità di fare, mandando avanti le forze vive rispetto all'inerzia in cui sono state costrette. Dirò di più, che quando parlavo di Madonie, parlavo di un luogo che ha avuto in questi tempi maggiore vitalità di Cefalù, che è Castelbuono. Il festival di Castelbuono a cui ho partecipato mi ha fatto vedere un'animazione. Qua c'è Stefano Polizzotto che magari poi ecco, un'animazione, cioè, questo discorso. Un'animazione di Castelbuono riconosciuta da molti siciliani e anche fuori di Sicilia come un'iniziativa concepita da una mente evidentemente che ha voluto bene a Castelbuono. Allora mi pare evidente che se in alcune cose il mare, l'accoglienza turistica, Cefalù ha un vantaggio inevitabile su molte, quasi tutte le città siciliane insieme a Taormina, quelle cose buone che ha Castelbuono sono a loro volta utili a Cefalù, quindi Cefalù può essere utile a Castelbuono e Castelbuono essere utile a Cefalù, e quindi non c'è buona ragione di non fare un consorzio, così come si vogliono fare di piccoli comuni, anche di grandi comuni o di medi comuni, che se hanno cose buone le hanno non solo per sé egoisticamente ma per tutti. Quindi avere dei presidi da Caccamo a Castelbuono a Cefalù, dove avvengono le cose diciamo di maggiore interesse di promozione, di musica, di teatro, che si muovono attraverso le Madonie, è certamente una opportunità da non perdere, e allo stesso modo far sapere che quello che di buono inevitabilmente può dare. Quindi voglio dire, insomma, l'idea del Festival delle Madonie è l'idea di un circuito di luoghi belli che hanno una vocazione che non può che essere potenziata, soprattutto tenendosi insieme, soprattutto facendo l'uno una cosa e l'altro un'altra, ma alla fine condividendo il buono che l'uno può fare rispetto all'altro, o la vocazione naturale, anche soltanto turistica, o anche soltanto paesaggistica, o anche soltanto uno è la montagna e l'altro il mare, ma anche le iniziative di Castelbuono. Io ho sentito parlare da tutti del Festival di Castelbuono e da nessuno di Cefalù. Nel momento delle, farsi finire, della amministrazione che se ne sta andando e che vuole essere riconfermata, io ho sentito, che è la ragione per cui mi vennero a chiamare, un grande silenzio su Cefalù. Ecco, non mi pare che sia una città che merita silenzio, mentre di Castelbuono ho sentito molte buone e giuste parole. Sì, e appunto io volevo chiedere, dato che qui abbiamo Stefano Polizzotto, candidato sindaco appunto di Castelbuono, Sgarbi ha lanciato una ciambella, consorzio tra Cefalù, Castelbuono, le Madonie, che a me pare di una grande validità, l'ho sempre sostenuto, non in questa occasione, ma anche sempre. Che ne pensa Stefano Polizzotto? Professore Sgarbi naturalmente è un grande oratore, ci ha dato prova già in questa sede di ammaliare diciamo tutti i presenti, e conosciamo quello che ha fatto a Salemi, l'abbiamo seguito tutti, sta facendo questa battaglia anche rispetto a una finta spesso legalità dell'antimafia, che bisogna dirlo, perché ci sono settori importanti che stanno lottando in Sicilia contro questo fenomeno, ma ci sono anche settori importanti che tendono sempre ad inquinare. Ove si vuole fare un contrasto politico, spesso si entra a gamba tesa e spesso, devo dire, si va a sfaldare quello che di buono c'era stato. Questa vicenda, diciamo, di Salemi la conosciamo un po' tutti, è una vicenda un po' complessa, noi stiamo qui a parlare di quella, sì, però è chiaro, torniamo al tema Stefano centrale. No, mi sembrava opportuno dire questo anche perché altrimenti non potevo candidarmi. Il male ha portato un bene, perché io non mi sarei candidato. Su questo rapporto Cefalù-Castelbuono, devo dire, è centrale. È chiaro che sono due paesi splendidi e si vanno diciamo a inserire in un contesto naturalistico stupendo, che è quello delle Madonie. Le Madonie sono secondo me un luogo magnifico, rimasto sostanzialmente intatto, un luogo in cui non ci sono effettivamente grandi, diciamo, obbrobri che sono stati fatti in tanti altri posti. Invece è un contesto molto bello che va verso Finale, che poi si estende verso Apollo, una sala sulle Alte Madonie, quindi è un contesto veramente magnifico che va sicuramente valorizzato e messo a rete. In questi anni probabilmente Cefalù, anche dovuta a una serie di problemi che hanno avuto qui a Cefalù, soprattutto di carattere finanziario, sono noti. Ma un po' in tutti i comuni della Sicilia. In tutti i comuni, però qui a Cefalù si sono un po' amplificati. Devo dire che è stata un po' penalizzata. Ma è chiaro che mettere a rete il mare, la montagna, la collina, questo splendido contesto naturistico che abbiamo, è essenziale. Quindi non si può che cogliere l'invito del professore Sgarbi. È chiaro quindi che lo dobbiamo tutti cogliere. Esatto. E allora, ecco, a Sgarbi volevo chiedere, ieri sera sentivo lì al Sea Palace che già c'era qualche avanzo di più che avanzo, un'offerta di un assessorato a Davide Rampelli, che è stato già la triennale, direttore della triennale di Milano. Rampello presidente della triennale. La cosa più singolare presidente di Rampello più che direttore, allora, è che uno dei migliori amici di Miciche, quindi con qualche perfidia l'ho indicato, intanto perché è molto bravo e poi perché tutte e questo quelle è importante. Manifestazioni che fecero all'assemblea a Palazzo dei Normanni quando era presidente Miciche furono fatte da Rampello. Allora ho pensato che avesse voluto candidare Miciche, che è il vero patrono di Croci, del mio amico Croci, avesse voluto veramente indicare un antagonista rispetto al quale io potevo dire ma può andare bene perché ha energia pari alla mia, o comunque Croci ha un problema di energia, cioè è un ragazzo di grande delicatezza, ma non so se la sua forza anche delle idee è una forza poi di imporre dei modelli e delle novità. Viceversa, uno che poteva imporle era Rampello, quindi se avessi sentito ma Miciche candida Rampello, probabilmente avrei detto beh, in fondo. E allora ho pensato che invece che un solo Croci ci volevano due Sgarbi, Sgarbi e Rampello, e quindi l'ho detto perché di fronte al nome di Rampello Miciche avrà qualche imbarazzo, perché tutto quello che Rampello sul piano operativo, festivaliero, la triennale era un organismo morto, era stato grande durante il fascismo, negli anni 50 e 60 ha lentamente declinato fino a sparire completamente quando è stato nominato Rampello, che venendo da un'indicazione che sembrava di centrodestra fu guardato malissimo dagli intellettuali milanesi, poi è stato capace di fare tali e tante cose che la triennale è rinata completamente e poi è stato chiamato anche a fare le cose per la Sicilia. Allora a questo punto gli uomini non sono quello che sono, non c'è un dato ontologico, gli uomini sono quello che fanno. E questo vale anche per la mafia. Un mafioso che sia immobile in letargo non è un mafioso, sarà anche uno che ne ha, come dire, la caratteristica facciale, ma il mafioso è quello che fa un atto mafioso. Bisogna ripristinare, come ha detto la Cassazione, il principio del fatto rispetto all'essere. Se uno è in sonno, dice io sono un massone in sonno, sarò un massone in sonno, ma non faccio nulla. È letargo. È letargo. Allora, il problema di Rampello è che Rampello è un uomo che esiste in quanto fa. E gli ho parlato, e dal momento che poi è scaduto, non è che l'hanno cacciato dalla triennale, hanno nominato tra l'altro un costruttore che ha creato molte polemiche, io ho ritenuto che lui avesse il tempo sufficiente per impegnarsi in alcune imprese, anche con sponsorizzazioni e interventi di sostegno all'economia pubblica, per venire a Cefalù, e mi ha detto di sì. A questo punto mi divertiva l'imbarazzo che si creerà nella persona di Miciche, che forse non ci ha pensato, perché Croci è una brava persona, ma anche come assessore non ha manifestato. Cioè l'unico che a Milano, oltre a me, ha fatto delle cose che si sono viste è stato Rampello. E quindi se uno le fa a Milano potrà farle anche a Cefalù. Quindi sì, mi è venuto in mente di proporglielo, non perché fosse senza un posto, ma perché stava in equilibrio fra le cose fatte a Milano e da me viste e anche talvolta discusse, ma comunque molto forti, molto ben realizzate, e una sicura ammirazione e chiamata di Miciche quando era presidente dell'assemblea. A questo punto dico ma perché non hai chiamato Rampello? Su Rampello potevamo anche dire forse Cefalù ha trovato una persona che ha quei requisiti che avevamo visto in Sgarbi, ma lì rimane comunque misterioso. Prima mi chiamano e poi mi mollano, e questi non hanno capito che io non mollo loro, non li inseguo con il bastone finché non mi spiegano come si spiega che Corsello, Guercio, Lavicari, Miciche, finché non ero libero mi volevano. Quando mi sono liberato, grazie all'infausta vicenda di Salemi, e quindi potevo finalmente candidarmi, no, non va più bene, no, ma qua... E siccome questo non era per le mie qualità che non sono mutate, ma per aver ceduto al ricatto dell'antimafia, io questo non lo accetto. Devono dire in che cosa è stato fatto un atto contro la legge. Siccome non è stato fatto, dovranno pagare quelli che hanno inventato un reato che non c'è. Si sappia. Ecco, tra le tante iniziative vulcaniche di Vittorio Sgarbi c'è anche quella di portare a Cefalù una scuola di musicale proposta dalla Vanoni, che cercava una sede, forse voleva una sede che, dignitosa. Dignitosa, e quindi della Vanoni fa così, mi chiama, ha chiesto l'apporto di Sgarbi, credo, mi chiama, siamo a vecchi amici, perché deve fare una conferenza, un discorso a Milano, e mi dice: ma ci sei anche tu, se ti sei, ci farò più volentieri. Dico: ma adesso vediamo, poi non, forse il giorno non è coinciso. Poi mi richiama e mi dice: perché io comunque voglio fare con te delle cose, e sembravano perfette per Salemi, perché lei voleva un edificio abbandonato da restaurare, da riabilitare a sue spese, e da poter utilizzare come una fondazione musicale per insegnare a un gruppo di allievi quello che una persona della sua esperienza conosce. Ma dico: ma lo faresti anche in Sicilia? Certamente. E nella mia mente in quel momento, le vicende di Salemi erano arrivate al limite, c'era sia Salemi che Cefalù. Poi, caduta Salemi, non certo per colpa mia, ho pensato che quella sua richiesta poteva andare bene, anche se a Salemi il problema centrale è quello delle case a un euro. Cioè, qui perché dico questa è la luce? Perché Salemi era in cattive condizioni, al punto tale che le cose più belle erano in rovina e le cose più brutte erano state costruite con la ricostruzione, per cui ho inventato le case a un euro. Per il progetto proposto dalla Vanoni, certamente quello è il luogo in cui lei poteva riabilitare un edificio di 400-500 metri quadri a sue spese, con il principio delle case a un euro. Caduta quella opportunità, forse per sempre, per Salemi, benché l'attuale commissario sia uno che ha molti rapporti con Cefalù, ma rimarrà lì soltanto due mesi, ed è Guglielmo Serio, che voi ben conoscete, che ieri era presente alla nostra proposta di candidatura. Sì, è stato presidente del TAR del molto, molto affettuoso. Ho pensato che tra i luoghi che certamente poteva vedere con soddisfazione la nostra Vanoni c'era Cefalù, e ho pensato, da vecchio amico quale io ero, lo dico al Guercio, che questo centro si poteva intitolare a Lucio Dalla. Questo balordo Guercio ha scritto in un suo comunicato che io ho caprescamente approfittato del nome di Dalla. Ma che vuol dire? Cioè, io non posso dire che voglio onorare Dalla? Si vergogni, Guercio, si vergogni, si vergogni, si vergogni. Io non ho usato il nome di nessuno, ho detto che si poteva onorare Dalla, ma non ho bisogno del nome di Dalla, ne ho abbastanza del mio. Ho pensato che, siccome Dalla stava in Sicilia e io conoscevo, come Guercio sicuramente non conosceva, il suo studio, la sua casa, i suoi luoghi a Milo, dove sta Battiato, essendo grande amico anche di Battiato, si poteva, nel nome di Dalla, con concorso di tanti, da Bocelli a Battiato, ovviamente alla Vanoni, dedicare un centro a Dalla. E questo cosa vuol dire? Che io approfitto. Si vergogni, Guercio, si vergogni. Ecco. E mi chieda scusa per avermi chiesto di fare il suo assessore, perché se fossi stato il suo assessore, come lui mi ha chiesto, avrei proposto comunque, anche a suo nome, che la Vanoni venisse qui per fare una cosa in onore di Dalla. Non capisco che cosa ci sia di, come dire, di approfittare del nome di... Io non devo approfittare del nome di nessuno, ne ho abbastanza del mio. Tu hai bisogno di approfittare del nome di qualcuno, non avendolo, caro Guercio. A proposito di assessore, ieri durante questa manifestazione c'è stato Mauro Caliò che è intervenuto, simpaticamente sempre, come sempre, perché una persona molto... nella conclusione si è detto che se Sgarbi sarà sindaco di Cefalù, Mauro Caliò diventerà assessore, viceversa. Se Mauro Caliò sarà sindaco di Cefalù, Vittorio Sgarbi sarà assessore della sua giunta. Come, è una battuta oppure c'è qualche cosa di... La giornata di ieri è stata interessante per diverse ragioni. Partiamo dalla premessa che nelle follie delle istituzioni e per le famose caste e non caste hanno ridotto il numero degli assessori. Quindi io inventerò dei meta-assessori, cioè assessori a metà. Perché un tempo erano 6, oggi sono diventati 4, si potevano portare a 7, ma anche a Salemi non riuscì a farlo perché lo statuto del comune doveva essere mutato. Morale della favola, è chiaro che si consumano i posti, perché già cominciano a essere 3 o comunque un numero tale per cui uno deve anche misurarsi tra la necessità di chiamare degli esterni capaci e la necessità di corrispondere alle esigenze di quelli locali. Ma è vero che ieri la mia riflessione era che, come in primarie e secondarie, recedessero alcuni, come ha fatto Calabrese, recedesse non so quali altri candidati, di alcuni neppure conosco il nome, certamente non la Puntina o la Puntina, il quale è bene che ci sia, ma io pensavo che recedesse Guercio. Oggi invece voglio che sia candidato Guercio. Cioè, non voglio che l'amico Avanti o l'amico Romano Romano o l'amico Antinoro, tutti ben li conosco meglio di lui, lo facciano ritirare. Voglio avere come nemico Guercio, voglio che Guercio rappresenti il passato e la vergogna di quello che ha fatto in modo insufficiente e perfino la vergogna di avermi chiamato assessore e poi di fare lo spiritoso. Quindi Guercio lo voglio. Quello che invece avrei fatto ritirare è appunto Cagliò. Ma Cagliò è furbo come una volpe, perché la proposta non è alla pari. Lui mi propone una cosa che non ha e io l'accetto, io gli propongo una cosa che ho. Cioè, mentre è assolutamente impossibile che io diventi suo assessore perché lui non sarà mai sindaco, è assai probabile che lui diventi assessore perché io sindaco lo sarò. Quindi nel gioco dialettico lui è stato abilissimo, perché ha detto, diciamo, c'è io non mi ritiro, se io vinco tu diventi assessore, io dico certo caro, grazie della proposta, e io ricambio, siccome sono un cavaliere antico, come diceva l'Ariosto, se io divento sindaco lo sarai tu l'assessore. Ora, per lui è una scommessa vinta, per me è una scommessa persa. Geniale, per cui geniale. Mauro Cagliò, geniale. Per cui se lui si ritira lo nomino assessore, ma se lui non si ritira lo nomino assessore lo stesso, perché io ho una sola parola. Però lui ha fatto un gioco molto abile, cioè, che mi ritiro a fare, tanto sono già assessore. Mentre io, siccome sono assolutamente certo che non vincerà Cagliò, non perché non abbia tutti i requisiti per farlo, ma perché vincerò io e quindi è inevitabile che lui perda, non possono essere due a vincere, è un dato di fatto che lui ha fatto un colpaccio molto intelligente. Quindi Cagliò rientra. Guercio non voglio che si ritiri, lo voglio confermato, anzi vorrei che lo appoggiassero anche altri partiti, non so perché non, che quali partiti sono ancora lì, che lo appoggino, cioè voglio che tutti appoggino Guercio, così avranno un ottimo candidato e noi potremo sconfiggere più di un partito, perché sconfiggere il PD è troppo poco, non è neanche divertente, dobbiamo sconfiggere tutti quelli che lo appoggiano. Ci avviamo un po' alla conclusione di questa nostra piacevole chiacchierata, però io volevo ricordare una cosa sulla quale per la verità non sono d'accordo con Vittorio Scarpa. Non sarà assessore lei? No, io non l'ho voluto mai fare, me l'hanno proposto una volta e non l'ho voluto fare, perché dimmi, bisogna nella vita fare una scelta. Se io faccio l'assessore non devo fare il mio lavoro, facevo il professore, il giornalista, ho fatto pure l'avvocato, ho fatto tante cose, però dico, quello che ha capito. Volevo avrei dovuto mettere da parte, il collega calabrese magari qualcosa lo sa, avrei dovuto mettere da parte tutto per fare l'assessore, così è, non c'è una cosa di... Ora io volevo dire una cosa, che per quanto riguarda, ecco, alla Triennale di Milano c'è stato un progetto dell'architetto Pasquale Culotta che è stato giudicato uno dei cinque migliori progetti in Italia, che riguardava il parco di pietra dietro le mura di fortificazione della città. Sì. C'è stato questo, Pasquale è una delle persone, possibilmente non sai la sua storia, Pasquale è una delle persone più grandi che abbia avuto Cefalù. È autore del piano, del primo piano regolatore Samonà che c'è stato a Cefalù, ma non solo, ha curato il centro storico evitando che ci fossero manumissioni forzate, ha curato il progetto di Piazza Duomo, ha fatto tante ma tante di quelle cose fatte veramente con competenza, con assoluta, si può divergere su alcune cose. Qualche progetto può anche non esserci d'accordo, soprattutto da un grande personaggio quale è Vittorio Sgarbi, che ha il potere di giudicare, ha visto un quadro al Mandalisca, ha bastato un'occhiata, hanno detto quello del Mandalisca, per vederlo. Però io dico che sono un grandissimo estimatore di Pasquale Culotta, che Cefalù gli deve moltissimo, soprattutto nel piano regolatore e in tante altre cose che via ci sono state, e anche per qualche progetto che è arrivato alla Triennale di Milano con uno dei migliori progetti che riguardava questa. Questo tanto per dirlo, per esempio per quanto riguarda il portone della cattedrale, è un portone che non ha nessun valore quello attuale. No, io non dico che bisogna mettere quello del pomodoro, assolutamente. Cioè, trovare un portone che sostituisca questo sgangherato. Sono punti di vista, il mio può essere anche sbagliato, ma può essere. Ma volevo esistente. Puntualizzare questo. Ecco, questo l'ho voluto puntualizzare Culotta. Perché, ripeto, sono un estimatore di Pasquale Culotta, siccome lo conosco intensamente da tutta una vita, so quello che ha significato per Cefalù, la sua personalità, e ne voglio parlare, anche perché Sgarbi arriva ora, quindi può non sapere alcune cose. Quando hanno fatto il progetto per la Rocca, cioè ci sono state società private che volevano impadronirsene, io scrivevo sul giornale L'Ora, quindi partivo da Ariete, Pasquale Culotta mi era dietro per cercare di non far privatizzare la Rocca. Siamo riusciti, Davide contro Golia, ad ottenere che sulla Rocca la Rocca non venisse privatizzata. Questo lo dico perché non conosce il personaggio, magari, e quindi qualche, poi si può anche divergere su qualche ma io non progetto. Voglio divergere neppure nella giornata di ieri uno dei momenti di maggiore emozione dialettica è stata l'intelligenza della vedova di Culotta, che io non avevo capito essere. Sì, no, una persona intelligente. E allora questo mi ha consentito di fare anche una serie di considerazioni che non avrei pensato di fare, stimolate da lei, per cui ho accettato la sua proposta di farmi vedere il progetto del Palazzo Comunale, su cui vi ero già peraltro espresso, e devo dire che ho visto delle aree, come le aree sul mare, ieri a casa di Guglielmo Serio, in cui alcune sistemazioni fatte da Culotta dimostrano la sensibilità che tu hai sottolineato. Devo dire che l'idea che ieri, tra l'altro, ho espresso con indelicatezza, ma non certo per maltrattare nessuno, era quella del mio convincimento che sia sbagliato che il prospetto del comune abbia la curva in alto, che tra l'altro è sporca, e l'ho detto, era solo questa osservazione. Su questo ovviamente la mia critica a Culotta si riferisce a quell'edificio e a quella forma, per cui mi pare che questo ognuno lo può vedere, giustamente, ma una considerazione di opportunità, di cui tra l'altro voglio convincermi fino in fondo, perché ho accettato, e forse oggi stesso andrò a trovare la vedova per vedere i progetti e capire la ragione che lo ha portato a quella scelta. Devo dire che contestualmente però ho appreso che un'altra delle cose su cui io mi sono contrapposto a Culotta, anche se non so quale sia la sua piena responsabilità, perché fino a ieri mi sembrava che la responsabilità fosse dei due architetti locali, è che a Salemi l'unica cosa che io ho trovato sbagliata e che è stata fatta con una spesa pubblica inutile sono delle scale mobili tuttora ferme, qualcuno mi ha detto disegnate da Culotta, spero di no. Voglio dire, su questo caso evidentemente c'è una posizione di conservazione che è la mia, meglio andare a piedi senza delle scale mobili che fare delle scale mobili che poi rovinano in qualche modo. I politici, fatto il progetto e la cosa, ma non è questo un antagonismo con le capacità, assolutamente, no, ho voluto chiarire questo aspetto, e anche sulla questione specifica mi sono riferito a quella foggia del comune che ho trovato non corrispondente a un ripristino che poteva anche normalissimo avere, è un fatto normalissimo, non esiste un mio, io non sono mai prevenuto per concludere, dicevo, questa piacevole chiacchierata, Vittorio Sgarbi, quali sono, nel caso in cui dovesse riuscire ad essere sindaco di Cefalù, quali sono gli obiettivi immediati o il progetto che ti senti di fare per Cefalù, per lanciare, per fare sviluppare? Ci sono due cose di quelle che ho viste che mi sembrano, anzi forse addirittura tre. Una è un gioco, c'è una casa abbandonata di una sorta di scrittore mago che ha dei disegni con diavolerie e stregonerie. Crowley. La casa di Crowley. Giocare sulla capacità di attrazione del mistero in tempi come questi può essere una buona ragione per recuperarne la magia abbandonata. Magia, primo punto. La magia, qui tra l'altro è il nostro amico Gigi, che è il mago di Cefalù, che mi ha indotto a creare un assessorato alla magia, che non mancherà qua. Quindi la magia si muove nella direzione del male o del demonio nella casa di Crowley e nella direzione del divertimento nel caso di Gigi Scalia. Quindi a ripristinare quella cosa. Seconda cosa da ripristinare è la Villa Bordonaro, che è una sede del comune che è stata abbandonata e che può diventare una sede in cui possono accadere sia incontri, sia presentazioni di autori, sia una specie di festival letterario, perché ci deve essere un premio, non so dove, c'è una volta andare a dare un premio a Saravago in qualche buco di Sicilia, un premio come il premio Campiello a Cefalù per la letteratura sembra il modo per onorare Vincenzo Consolo e il suo capolavoro relativo al capolavoro che è il Ritratto di Antonello, quindi un premio letterario che potrebbe svolgersi a Villa Bordonaro. Poi la cosa che più mi preme è che se Cefalù è diventata tale lo si deve a una visione del turismo che è stata epocale e mitologica alla metà degli anni 50 con il tram di Drannè. Vederlo nella prospettiva, certo, di ridurne i posti, di cambiare le fogge, che qualcosa che non so come sia stata concepita, nell'abbandono in cui è un'umiliazione per, certo, Cefalù e per un turismo che può essere, studierò come, ripristinato in accordi con i proprietari del tram di Drannè, perché non si può lasciare in abbandono. Quindi per il tempo che io farò il sindaco occorrerà che entro la scadenza del mandato sia riaperto il tema di Drannè, certo, con tutto quello che procedure, comporta la burocrazia, ecco, e così via. Quindi queste sono tre luoghi, due facili. La casa Crowley credo che potrà trovare anche addirittura un finanziatore esterno che si diverte a vivere o a ricostruire la magia. La casa Bordonaro, che è un compito principio del comune, ma non mi pare troppo grave, e questa la connetterei anche a un luogo che mi è sembrato particolarmente significativo, di cui voglio discutere con il vescovo, che è la villa estiva del vescovo, che è un luogo secondo me che meriterebbe anche quello di sopra Santa Lucia, per dirlo, sopra il luoghi, più facile, perché mi pare e lì il mago l'ha messa a posto quando faceva ristorazione, sia meglio sistemata. Poi invece, con forze non pubbliche, come nel caso di Villa Bordonaro, ma private, ma attivate con stimoli che occorrerà poi capire come si possano attivare, l'area del Tem Mediterraneo. Quindi ho l'idea abbastanza chiara, perché essendo un luogo che non ha bisogno di essere rimesso in piedi come Saleme dalle fondamenta con gli edifici terremotati, perché qui il terremoto fortunatamente non c'è stato, occorre un diverso terremoto di principi, cioè che individui dei punti nevralgici che hanno bisogno di essere attivati senza, mi pare, particolare fatica, non mi pare che siano perché tutto il resto io ho visto, sono stato in 3 o 4 ristoranti di Cefalù, sono di un livello tale che uno non rimpiange la Costa Azzurra o la Costa Smeralda. Ora, se uno questo va, ci fa piacere, quindi vuol dire che le cose poi occorre, non occorre uno sforzo da 1 a 90 ma da 90 a 100. Cioè, a 90 siete già, per cui io non, certo, so, quei 10 che mancano, non so se sarà così difficile. Certo, certo, che quando uno deve fare il salto in alto, arrivare a 1 metro, 2 metri è più facile che arrivare a 2 metri e 50, cioè gli ultimi 5 centimetri sono più faticosi dei 2 metri e 45, ma certo, io sono specialista negli ultimi 5 centimetri. Ecco, ecco. Noi ci auguriamo che i 5 centimetri si raggiungano, e intanto vorrei ringraziare Vittorio Sgarbi, il professor Vittorio Sgarbi, per la sua partecipazione alla nostra trasmissione, quella tra una novità e l'altra, l'avvocato Francesco Calabrese, che lo sosterrà come UDC in questa campagna elettorale. Non è ancora certo, perché i capi dell'UDC non sono ancora pronunciati, però che lui sia soltanto C. Possibilmente arriverà anche la D e la C. E intanto il nostro regista Angelo Arduino ci chiede di fare una breve pausa, cosa che facciamo prima di passare all'avvocato Stefano Polizzotto e a Totò Marsala, presidente del basket di Cefalù. CRM. Pubblicità. Fatti trovare su internet. Per la tua vetrina online, affidati ad un professionista del web marketing. Maggiori info su madoniexpo.com. Ripeto, www.madoniexpo.com. Che convenienza trovi da Hub, insieme a tanta scelta e qualità. Fino al 25 marzo, sotto a chi compra! Olio extravergine di oliva da 750 ml, 1,99 €. Coca-Cola lattona da mezzo litro, 50 centesimi. Macchina da caffè espresso Gaggia, 59,90 €. Hard discount, in Sicilia e Calabria. La spesa per tutti, di tutto e di più. Per la tua spesa c'è solo Hard. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro d'Oro. Oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Ristorante Pizzeria Kenzia al Trappito da Nicola. Per una cena indimenticabile con piatti particolari, decorati con estro e fantasia. Per la pizza con gli amici, gustosa e ricca di ingredienti di qualità. Nel centro storico di Cefalù, in via Bordonaro 96. Per prenotazioni e info 0921 42 38 01. Ristorante Pizzeria Kenzia al Trappito, con suggestiva terrazza sul mare. Kenzia al Trappito vi ricorda che anche d'inverno potete godere lo spettacolo del mare con la terrazza coperta. I Gattopardi Sicilia. Arte, storia, sport, cultura, sicilianità. Partecipa con noi per la difesa della nostra terra e delle antiche tradizioni. Iscriviti e diventa il referente locale dei Gattopardi Sicilia. Visita il sito www.egattopardi.it. Se vuoi rilassarti con i tuoi amici, c'è Eolo Caffè Drink and Food al porto di Cefalù. Per un aperitivo, uno stuzzichino e anche per mangiare bene con degli ottimi panini alla piastra, la rosticceria e la friggitoria, c'è l'Eolo Caffè. Eolo Caffè, ambiente accogliente, climatizzato e video con Sky autorizzato, dove potrai gustare comodamente dal caffè al panino. Eolo Caffè, al porto presidiana di Cefalù, per una ricchissima colazione. Aperto dalle 6. Eolo Caffè Drink and Food organizza anche feste di compleanno. Telefono 0921 925 083. Eolo Caffè è anche rivendita autorizzata tabacchi e biglietteria marittima per le isole. Stuzzico Fast Food Pizzeria a Cefalù. Pizze piccole e familiari, primi e secondi piatti veloci, da consumare sul posto o da asporto, insalate fresche e fantasiose, e le specialità panini, piadine, kebab e piatto kebab, panini con hamburger e con porchetta, e il gelato soft. Da Stuzzico, menù fisso a base di carne 12 euro, di pesce 15 euro. Stuzzico e anche rosticceria Mignon, catering. Stuzzico è ideale per festeggiare compleanni e ricorrenze particolari. Stuzzico, fast food pizzeria, anche servizio a domicilio. Via Roma 39, telefono 0921 42 35 42, Cefalù. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423 456. Riprendiamo qua e là tra una novità e l'altro. Consentitemi intanto di salutare il dottor Emanuele Cusimano, dentista, che è un candidato sindaco di Cefalù, almeno ha espresso questo suo desiderio, questa sua volontà, credo, diventare sindaco di Cefalù. E vorrei però prendere e iniziare con l'avvocato Stefano Polizzotto, candidato sindaco di Castelbuono, sostenuto dal movimento Castelbuono Libera. Ecco, intanto vogliamo fare una scheda, un curriculum di Stefano Polizzotto. Naturalmente io sono, per chi non mi conosce, sono un avvocato amministrativista, lavoro da tanti anni, diciamo, nell'ambito della pubblica amministrazione, assisto tantissimi enti in Sicilia, quindi ho dato tutto nella mia professione. Ora forse è arrivato il momento, spinto dai ragazzi, perché il mio movimento parte proprio dai giovani, è arrivato forse il momento anche di dare un impegno concreto in politica. Tra questi giovani c'è Giorgio Campo, che abbiamo qui e che salutiamo. Diciamo l'impegno. Com'è nato questo desiderio di fare il sindaco di Castelbuono? Siete in tre, sì, diciamo, come candidati, no? Sì, siamo Peppe Norato, Antonio Tumminello e Stefano Polizzotto, che oggi è qua. Sì, siamo tre candidati. Norata, sapete tutti che è espressione del sindaco Cicero. Il Tumminello, diciamo, è uno che da 15 anni occupa la scena di Castelbuono. è per la terza volta che si candida, quindi dico, speriamo bene stavolta per lui, noi speriamo per noi, lo dico. È chiaro che la nostra candidatura è invece una candidatura completamente diversa, che nasce su basi diverse, che nasce da un rapporto diretto, devo dire, viene, nasce dalla, proprio dalla base, dai giovani, dalla società civile, quindi è una candidatura completamente sganciata dai, dai partiti politici. Abbiamo detto come slogan: non andiamo né verso destra né verso sinistra, rubando uno slogan di De Gasperi, non è nostro lo slogan, ma andiamo verso la gente, verso l'equità sociale, verso un'equità sostanziale, un rapporto diretto con le persone che si è perso, ma si è perso a tutti i livelli, devo dire. I politici sono un po' arroccati nei loro fortini, non hanno più il contatto con le persone, con i problemi della gente, con i bisogni della gente. Per cui noi vogliamo recuperare questo rapporto diretto con le persone, e stiamo facendo. In 15 giorni noi eravamo dati come terzi incomodi, devo dire siamo in testa su tutti i sondaggi, c'è stata una grandissima partecipazione popolare. Ieri sera abbiamo fatto un incontro proprio in un luogo simbolo di Castelbuono, che è all'inizio della piazza in cui si riuniscono tutti i ragazzi. C'erano centinaia e centinaia di ragazzi entusiasti, con una grandissima partecipazione, un dibattito diretto direttamente dai ragazzi, con una profondità inaspettata, che ha sorpreso tutti, ha sorpreso prima di tutto me, nonostante io li conosco, ormai mi seguono da alcune settimane, ma dovete credere che ieri sera siamo rimasti tutti a bocca aperta. La profondità dei ragazzi, degli interventi, dell'esigenza nuovamente di partecipare alla politica, non più calata dall'alto, ma che viene da loro. Uno di questi ragazzi è Giorgio Campo. Giorgio, diciamo, com'è nata questa idea di sostenere Stefano Poliziotto, diciamo, in questa che è la candidatura. Intanto buongiorno a tutti. Devo dire che, seppur inizialmente timida, nasce con molta determinazione, con l'obiettivo chiaro e deciso di dare una svolta, dare un cambiamento a quelle che sono state le abitudini finora fin troppo lassive a Castelbuono. Ma è un cambiamento che inevitabilmente non poteva che venire da noi, questo sentimento, questo cambiamento, appunto, di questa volontà di voltare pagina, in quanto siamo i primi a subire gli errori di una certa classe dirigente, gli errori di chi in termini di età rispecchia i nostri padri, affinché possiamo realmente, in un periodo piuttosto devastato per le esperienze giovanili, cercare di, nell'aggregazione, nella condivisione degli intenti, vogliamo veramente cercare un'alternativa valida, ma soprattutto solida e almeno quanto più serena di quelle che sono le prospettive attuali per il nostro futuro. Ecco allora la condivisione della proposizione di Stefano Poliziotto. Ecco un progetto che appunto viene denominato Castelbuono Libera, libera da quello che finora l'ha condizionato e prima di tutto ha condizionato le giovani generazioni. Ecco, Giorgio Campo ha tirato in ballo questo discorso del progetto per Castelbuono. Vogliamo entrare nel merito di questo progetto, Stefano Poliziotto? Sì, innanzitutto è un progetto che parte dagli uomini, perché un progetto si costruisce sulle persone, non si costruisce. Tutti siamo bravi a fantasticare, a fare programmi favolosi, a promettere mare e monti alla gente. Noi innanzitutto vogliamo partire dalle persone. Stiamo tornando di nuovo a fare partecipare la gente alla politica. Noi non c'è assemblea, non c'è comizio, che abbiamo centinaia di persone che vengono, che partecipano, che danno le loro idee. C'è di nuovo la partecipazione diffusa nella gente. Questo innanzitutto è un grande progetto. Il primo progetto è questo: ritornare in mezzo alle persone, ritornare con loro, sentire i loro bisogni. Non si può costruire favole, perché oggi non è più il tempo delle favole. La gente è stanca delle promesse, è stanca quindi della politica che ha promesso mare e monti in questi anni, che ha tradito le aspettative degli elettori. La politica deve tornare di nuovo a soddisfare i bisogni della gente. E quindi noi, il nostro progetto innanzitutto parte dalle persone, parte da questo rinnovamento negli uomini e nelle idee. Innanzitutto un distacco che c'è tra la popolazione e la politica. Innanzitutto un rinnovamento culturale, ripeto. Perché è un rinnovamento che deve partire di nuovo dal rapporto con le persone. Fatto questo, il resto poi è, possiamo costruire un bel progetto, anche di sviluppo, anche di crescita, ma innanzitutto dobbiamo rifondare all'interno la politica, cioè la politica deve essere allargare la sua base nuovamente, non più le cinque persone che governano o l'una persona che governa tutto, che ha le redini tutti. Io ho detto a tutti i ragazzi, ho detto a quelli che mi sono accanto a me, che noi dobbiamo condividere questo progetto. Io non voglio deleghe, non voglio nulla, deve esserci una grande partecipazione collettiva in questo progetto. E questo la gente ha percepito e la gente a Castelbuono sta venendo spontaneamente. Noi, io ho rifiutato qualsiasi accordo con la vecchia politica, ho detto che non c'erano accordi per nessuno, non volevo fare nessuna concessione, non concedevo assessore a nessuno, nonostante ci fossero stati degli approcci con alcuni movimenti, quindi storici. Io ho detto noi ripartiamo con la società civile, chi ci sta in questo progetto di rinnovamento, bene, noi siamo pronti ad accogliere. Ed è stata una carta, per dire, vincente, perché noi abbiamo centinaia, ripeto, centinaia di persone che tutte le sere con entusiasmo e con partecipazione stanno accanto a noi. Questo è già un risultato straordinario per me, perché si ritorna nuovamente a partecipare, quello è il senso della partecipazione che si è perso. Non ci sono leader, ci deve essere soltanto, noi siamo soltanto strumenti di questa grande partecipazione. Tutte le scelte le facciamo insieme. Tutte le scelte sono state fatte insieme, gli assessori, i candidati, c'è una grande collegialità nella scelta e dobbiamo scegliere i migliori, dobbiamo scegliere chi ha qualcosa da dare a questa collettività. E tutti, chi deve dare qualcosa, lo deve dare con lo spirito, come dico io sempre cristiano, di donare, perché c'è il piacere di donare le cose. Perché quando si dona poi c'è la possibilità di ricevere. Questo è il nostro messaggio, il senso della partecipazione e del dono. Dottor Emanuele Cusimano, candidato a sindaco di Cefalù, qual è la molla che l'ha spinto a candidarsi a sindaco di Cefalù? Premesso, prego, no, va bene, funziona bene. Sì, funziona. Premesso che io i microfoni funzionano sempre bene. Premesso che lavoro a Cefalù da circa 40 anni, è sempre stato uno dei miei sogni quello di fare qualcosa per questo paese. Potrebbe sembrare retorica, ma io non sono un politico, non ho mai fatto politica, mi sono sempre occupato di sindacato, di categoria, per cui ho sempre difeso gli interessi personali della comunità e anche del sociale, e questa è stata la molla, diciamo così, era un mio desiderio, un mio sogno che avevo, che ho sempre nutrito e ho sempre sperato di poter realizzare. Candidarsi al sindaco presuppone che ci sia un supporto, sono i sindacati o cosa potrebbe supportare avere delle chance di essere eletto? Glielo dico subito, ieri pomeriggio ho sentito Vittorio Sgarbi che ricordava quanto è venuto a Salemi nell'agosto del 78, del 2008, che aveva tutti i partiti politici contro. E lui, la sua lista si chiamò Soli contro tutti. Ecco, io realmente mi trovo nelle sue stesse condizioni, io non ho nessun tipo di partito politico dietro, ho semplicemente dietro qualcosa che mi sostiene, che è il mio coraggio, che è la mia razionalità, un po' forse anche la mia incoscienza, perché mi rendo conto che questo forse era il momento peggiore per potersi dedicare alla, diciamo, politica fra virgolette, ma a un'impresa del genere. E ritengo che qui l'amico avvocato di Castelbuono sia molto più fortunato di me, perché lui sono solo in tre che si candidano, no? E quindi siamo in sette, quindi c'è una concorrenza molto più spietata. Tra l'altro, due personaggi, due big come Vittorio Sgarbi e il professore Croci, che è sostenuto dalle forze politiche che hanno dominato in questi ultimi anni la città, PDL e Grande Sud, sono molto più favoriti rispetto a uno come me che viene dalla gavetta e che non ha mai fatto politica. Certo, però io ammiro un po' il suo coraggio, lei diceva coraggio, può essere anche incoscienza, può essere cosa, però io credo che, ecco, Stefano Polizzotto diceva c'è un gruppo di giovani che mi sostiene, che ha portamento, c'è questa possibilità di poter fare qualche lista sua di una certa consistenza, naturalmente ci saranno i sindacati della sua categoria che lo sosterranno, ma di poter fare qualche lista che... La lista sicuramente c'è, si chiama Noi per Cefalù, e non è un caso che si chiami Noi per Cefalù, perché il mio modo di concepire la politica, un po' ne ha accennato qui l'amico di Castelbuono, è quello di essere un po' a servizio degli altri. Il politico deve essenzialmente mirare a un obiettivo unico, che deve essere il benessere della società. Qualunque sia la sua idea, che possa essere di destra, di sinistra, di centro, se, e questo è chiaramente uno di quegli interrogativi che uno si porta dietro, se l'obiettivo è comune, perché allora queste lotte violente che ci sono stati negli anni scorsi e che probabilmente continueranno a esserci anche adesso? Se l'obiettivo è comunitario, perché non creare un clima di distensione più sereno, certo, più pagato, d'accordo, discutere quelle che sono le problematiche reali, d'accordo, del paese? Nella normale dialettica, ha ragione. E quindi col dialogo, con il ragionamento, con un po' di buona volontà e anche, devo dire, con meno presunzione, mettersi in gioco, se è il caso, al momento opportuno, se vedi che le cose possano andare meglio con un'altra persona, eventualmente anche appoggiare quell'altra persona, se gli obiettivi sono comunitari. Certo. E ecco, avvocato Stefano Polizzotto, poc'anzi accennavi, io sono stato collega per 108 anni, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, quindi accennavi un po' a questa integrazione tra Cefalù, Castelbuono. Castelbuono come potrebbe inserirsi nel Parco delle Madonie, ma inserirsi nel senso di fattivamente per creare delle situazioni di una certa positività per le Madonie? La domanda è naturalmente importantissima, perché è centrale in questo contesto. Ho detto poco fa, quando c'era il professor Sgarbi, che il contesto nostro delle Madonie è un contesto meraviglioso. Io amo profondamente le Madonie, ho scelto di abitare a Castelbuono nonostante, dico, lavori fuori in giro per la Sicilia, ma ho scelto proprio di abitare a Castelbuono perché è bello, uno arriva là, si apre il cuore, c'è quella natura incontaminata, quel contesto ancora completamente integro, e qui bisogna fare tutto uno sforzo. È chiaro che noi siamo in una posizione fortemente vantaggiosa, perché abbiamo il mare a Cefalù, stupendo. Cefalù va assolutamente rilanciata, perché è una cittadina splendida, con una storia, con arte meravigliosa, per cui va assolutamente, deve diventare un punto di nuovo di riferimento delle Madonie, in cui abbiamo il mare, abbiamo la collina che è Castelbuono, abbiamo la montagna, sono le pedralie e tutto il contesto quindi di Piano Battaglia. Un contesto assolutamente abbandonato, cioè un contesto in cui noi abbiamo abbandonato quello di più bello che abbiamo, cioè l'abbiamo assolutamente lasciato nell'incuria. Io l'altro giorno sono salito a Piano Battaglia, così portando i miei figli per farli divertire un po' sulla neve, io sono rimasto, guardate, avevo il cuore infranto. C'è un posto totalmente abbandonato, in cui non si riesce quindi a fare turismo di qualità. Noi non dobbiamo assolutamente distruggere quello che abbiamo, anzi, lo dobbiamo valorizzare. Questo contesto, diciamo, che è assolutamente quindi abbandonato, va ripreso. Abbiamo una risorsa infinita, il mare, la montagna. Noi abbiamo più neve delle Alpi. Io sono andato sulle Alpi quest'anno in vacanza a portare i miei figli a sciare, non c'era neve. Cioè noi è da 3 mesi che abbiamo la neve e non riusciamo a utilizzarla. È una follia. Cioè questo è il sistema. Noi non vogliamo svilupparci. Noi dobbiamo mettere a rete, il parco deve diventare una risorsa. Noi abbiamo il mare, abbiamo la bellezza naturalistica, ma abbiamo la montagna, che dobbiamo assolutamente utilizzare in maniera rispettosa, certo, dell'ambiente, rigorosamente rispettosa dell'ambiente, ma dobbiamo farla diventare una fonte di sviluppo. Io dico, come tutti i sindaci delle Madonie, ma com'è che non pensano a un grande progetto? E nella vita bisogna anche sognare. Noi stiamo sognando a Castelbuono con i ragazzi e vogliamo sognare anche nella politica. Perché non torniamo a sognare uno sviluppo vero delle Madonie, in cui si mettono a rete tutti i paesi, i comuni, in cui si fanno delle opere importanti per utilizzare la montagna, certo, e riportarla nella sua centralità. Certo. Freud sosteneva che il sogno porta a galla i nostri desideri, e quindi credo che siano i desideri più importanti, sì, del candidato Stefano Polizzotto, il sindaco delle Madonie. Credo, prima che intervenga Totò Marsala, ha detto tante cose, ha detto tante cose belle, si è dimenticato la buona cucina di Castelbuono, perché si mangia benissimo. E poi condivido quello che ha detto sui sogni. I sogni aiutano a vivere, non sono io che lo dico, gli uomini che non riescono a sognare non hanno neanche forse la voglia di poter gioire della vita. Perfetto, ha ragione perfettamente, almeno secondo il mio punto di vista. Ecco, Totò Marsala, credo che su questo potresti dire qualcosa, perché sì, ti occupi di turismo, sei stata alla Bitte di Milano. Sono stata alla Bitte di Milano per propagandare le nostre bellezze. Esatto. E lo hai fatto da umile cittadino, e tante volte riescono meglio. Come sempre. Ecco, rimettendoci. No, volevo anche, perché posso parlare delle Madonie, visto che per 13 anni ho gestito un albergo a Piano Zucchi sotto la scuola di Mimmo Mogavaro. Va bene? Quindi conosco benissimo, ho visto nascere il parco delle Madonie. Ebbene, tutto questo non sviluppo, va bene? Io non so da che cosa dipende, o forse lo so. Mi è piaciuto il tuo parlare, il tuo dire, e il fatto, volevo collegarmi anche a un altro discorso, un fatto precedentemente nei giorni scorsi a Cefalù, sindaco candidato Cicero, perché dice che ha fatto tanto per Castelbuono, però vedo che tu hai detto che alle tue riunioni contro questa amministrazione ci sono tante persone, quindi tutta questa grande gioia della gestione Cicero penso che non esista allora a questo punto, e mi piace dirlo perché io sono un cefaludese, puro sangue. Va bene? E quindi senza nulla togliere attenzione alle capacità di Cicero, perché ognuno, però quello che tu hai detto è stato documentato. Volevo dire questo, purtroppo da quando è nato il Parco delle Madonie, purtroppo Piano Battaglia si è fermato. È da più di 25 anni che si parla di un impianto e non si è mai fatto niente. L'area attrezzata, ora grazie al comune di Snello, è stata un po' ristrutturata, ma è lì. Va bene, perché noi abbiamo, oltre a Piano Battaglia, c'è il territorio di Piano Zucchi, che è una favola. Va bene? Ripeto, io ci ho vissuto per più di 10 anni, quindi posso parlare, ho visto tutte le Madonie, ho girato tutte le Madonie, mi occupo di editoria da 30, va bene? E quindi conosco questi bei posti. Ma la cosa che mi dispiace tanto è che forse qualcuno non crede, Piano Battaglia, alle alte Madonie. E se non si sviluppano le alte Madonie, i comuni sono fuori. Quindi noi dobbiamo pensare alle alte Madonie, impianti sciistici, natura, con tutti i comuni consorziati, uniti, questo è molto difficile purtroppo, uniti, per sviluppare questo territorio che sono Madonie e Cefalù. Io quando ero là sopra è venuto una volta una coppia svizzera, dice: ma voi avete montagne che non hanno niente da invidiare alla Svizzera. Come è venuto una persona, quando è stato istituito il parco nostro, cioè il Parco delle Madonie, è venuto un albergatore abruzzese. Ho detto: da quando è nato il Parco dell'Abruzzo, noi siamo finiti. Mi fermo qua. Ecco, credo che l'avvocato Stefano Polizzotto voglia aggiungere qualcosa. Devo dire che mi stimola molto qui la presenza di Totò Marsala. Di Totò Marsala. Prima, perché probabilmente condividiamo gli stessi sogni, ma soprattutto questi non sono sogni, questo è lo sviluppo. Noi non possiamo pensare che lo sviluppo è più nelle fabbriche. Le fabbriche non esistono più, le fabbriche sono in Cina. Noi dobbiamo pensare a un altro tipo di sviluppo, uno sviluppo sostenibile, che coniuga l'ambiente, che coniuga il rispetto alla natura. Questo è lo sviluppo che noi dobbiamo, a cui dobbiamo mirare. Noi, il contesto madonite, è un contesto che ci permette questo, perché abbiamo mare, collina e montagna, abbiamo un artigianato favoloso, abbiamo una cucina stupenda, favolosa, buonissima, come dicevo, ci sono dei percorsi agroastronomici che possiamo riscoprire, e questa è la nostra forza, e tutto su questo dobbiamo puntare. Se io sarò sindaco, probabilmente lo sarò, visto che lo vuole la gente a Castelbuono, non lo vuole gli apparati di partito, se sarò sindaco farò una battaglia all'interno del parco, questo l'ho promesso già. Io sono uno che non mi fermo davanti a niente, forse già questo hanno cominciato a capire a Castelbuono, perché pensavano che ero il terzo incomodo, invece hanno capito che io ho una forza intrinseca mia, personale prima di tutto, e poi una forza della gente che difficilmente riesco ad arrestare. Io farò una battaglia all'interno del parco pazzesca, lo dico già fin da adesso, perché lì dobbiamo costruire il nostro futuro, lì dobbiamo costruire le nostre risorse per i nostri ragazzi, per le generazioni future. Io dico sempre, io bene o male, ma che mi ci porta a scendere in politica? È chiaro che io ho tutto alla vita, ma non è quello. Noi dobbiamo pensare anche ai nostri figli. Oggi si sta pensando troppo sempre su se stessi, siamo chini sempre su noi stessi, pensiamo a noi stessi, non pensiamo più ad investire per le nuove generazioni. Invece bisogna tornare a investire sulle nuove generazioni, perché solo così possiamo creare quindi uno sviluppo, solo in questo modo. Se noi non abbiamo l'obiettivo delle nuove generazioni non possiamo costruire uno sviluppo. Quindi questo è l'obiettivo principale. Noi dobbiamo assolutamente creare questa rete. Ci vorranno anni, ci vorranno battaglie, ma dobbiamo assolutamente mettere a rete la Madonia, perché solo in questo modo noi possiamo realizzare lo sviluppo di questo comprensorio. Perché noi non dobbiamo più ragionare con un singolo paese, non esiste più la politica del singolo paese, ci sono i comprensori, il comprensore nostro è il comprensore madonita. Sulle Alpi ci sono i comprensori sciistici. Se non si ragiona con i comprensori non ci sarà sviluppo, perché non basta il singolo posto, bisogna mettere a rete i nostri paesi, che sono tutti belli, molto belli, con delle peculiarità, con, devo dire, ancora oggi con la loro integrità. Perché una cosa bellissima della Madonia è che sono paesi integri, cioè paesi in cui non c'è stata una devastazione. Certo. E quindi questa nostra integrità deve essere il nostro punto di forza, il momento di sviluppo vero. Per quanto riguarda Ciccio, che mi sollecitava l'amico qua comune, dico, noi non è che non abbiamo nulla contro Mario Ciccio, attenzione, noi contestiamo soltanto il fatto che lui si è arroccato all'interno del suo fortino, cioè lui non ha perso il contatto in questi anni, in questi ultimi anni con la gente, cioè non c'è più il contatto diretto con le persone. Noi gli abbiamo dato atto e merito che lui ha portato il nome di Castelbuono in tutto il mondo, questo è indiscutibile. Noi l'abbiamo detto già fin dalla prima sera, i meriti vanno riconosciuti, i meriti si devono essere riconosciuti alle persone, ma è chiaro che lui si è arroccato nel fortino della politica, ha perso il contatto con le persone. Intanto consentimi di salutare Leo Ruvituso, che con i suoi click fa delle fotografie bellissime, che ammiriamo spesso, è diventato un vero professionista. Ecco, per concludere questo nostro discorso, iniziamo con il dottore Emanuele Cosimano. Quale messaggio si sente di dare alla città di Cefalù? Poi chiederemo anche a Stefano Polizzotto quale messaggio si sente di lanciare ai cittadini di Castelbuono. Stefano ha fatto un'analisi di quello che potenzialmente può fare il comprensorio. Noi abbiamo due grandi risorse, come dice lui non abbiamo fabbriche, non abbiamo più manco la Fiat, l'abbiamo mandata via perché ci siamo comportati in un certo modo, perché abbiamo fatto stufare realmente gli imprenditori che vengono a investire nella nostra terra, e questa è stata una grandissima perdita, ce ne rendiamo conto soltanto dopo delle cose. Quindi abbiamo due cose che possiamo sfruttare, ovviamente il turismo che si basa sul mare, e a Cefalù c'è un bellissimo mare, Cefalù e dintorni, e il comprensorio madonita, quindi Piano Battaglia, Piano Zucchi, che realmente non hanno nulla da invidiare come bellezza, come diceva il signor Toto Marsala degli svizzeri, che diceva ma qui avete delle montagne bellissime. E allora chiediamoci, l'ho scritto pochi giorni fa su Cefalù News, non so se Totò l'ha letto, a proposito del discorso di Panorama, sulla polemica perché si sono dimenticati di Cefalù. Allora io dico sempre, chiediamoci il perché succedono certe cose, ma facciamoci un esame di coscienza realmente, e diciamo, ma è veramente sempre colpa degli altri? Può darsi che anche nei nostri comportamenti ci sia qualcosa di sbagliato ad allontanare il turista da Cefalù. Ho letto anche le news e le lettere che vengono inviate a Cefalù News, veramente ce ne sono alcune raccapriccianti, che io da cefaludese, da siciliano mi vergogno, e non è giusto. Bisogna cercare di cambiare cultura, ma come diceva lui poco fa, cambiare cultura alle persone o cambiare mentalità non è una cosa di un giorno, di una campagna elettorale o di qualche anno, ma di generazioni, e noi tempo non ne abbiamo più. E allora faccio un appello, rimbocchiamoci tutte le maniche, cerchiamo di far capire alla gente che se vuol continuare e se vuole sperare in un futuro migliore deve essere modesta e capire quelle che sono realmente le esigenze del turista quando viene a Cefalù: sorriso, simpatia, cordialità, disponibilità. Queste sono cose che che ci rinfacciano. D'accordo. Che non ne abbiamo. D'accordo. Cos'hanno di, cos'ha di più Rimini, Riccione, Siracusa, Catania? I catanesi sanno fare il turismo meglio di noi. Taormina, a parte la bellezza che ha di, del panorama, che cosa ha di più di Cefalù? Il mare, noi ce l'abbiamo forse più bello. E allora vediamo un pochino di esaminare a 360 gradi quelli che possono essere le motivazioni su basi reali, e chiaramente una volta che si individuano le motivazioni cercare di porre il rimedio in qualche modo. Il messaggio di Stefano Polizzotto ai castelbonesi principalmente, no? Poi un po' a tutte le madonie, Cefalù compreso. Ma oggi insomma siamo stati un po' stimolati qua dal dibattito a più voci, quindi abbiamo parlato un po' anche delle madonie. Ma è chiaro che il messaggio che noi stiamo dando a Castelbuono è innanzitutto un messaggio di novità assoluta. Noi stiamo dando un messaggio straordinario alla gente, un messaggio di nuovo di serenità, di partecipazione. Noi non abbiamo attaccato, fatto un attacco a nessuno durante la campagna elettorale. Abbiamo semplicemente portato le persone in piazza di nuovo con la nostra voglia di partecipazione, col nostro impegno personale. La gente sta apprezzando che tutte le migliori energie di Castelbuono si stanno spendendo in questo progetto. Questo è quello che apprezza la gente, ed è questo il messaggio che vogliamo dare, un messaggio di serenità, di partecipazione fattiva. Chi può dare qualcosa la deve dare, non ci si può più arroccare all'interno, dicevo, di schematismi passati. Oggi la gente vuole di nuovo tornare a sperare in un futuro migliore, ma sperare un futuro partecipato, perché la partecipazione in questi anni a tutti i livelli è stata mortificata. Cioè la gente ha dato deleghe in bianco alla politica. Le deleghe in bianco non servono, hanno portato un dissesto sociale prima di tutto, oltre che economico, che è sotto gli occhi di tutti, il degrado morale, il degrado nella politica. Si è andati verso l'arricchimento personale, verso soltanto centri di potere personali. No, bisogna spezzare questo, bisogna fare una vera, come l'ho definita in più comizi io, una rivoluzione prima di tutto culturale, in cui non ci siano più i centri di potere, ma in cui ci sia la gente che si riappropria del proprio futuro. Cioè sono in prima di tutto, l'ho detto ai giovani di sera, è stato favoloso, che sono loro che devono essere in prima persona a spendersi nuovamente, a tornare, loro devono essere protagonisti. Perché loro è il futuro. Noi le vecchie generazioni, io mi definisco già vecchio perché magari ho una posizione consolidata, ma non sono affatto vecchio, ho 42 anni, quindi sono molto giovane, sono uno di loro. Devo dire, forse loro mi vedono anche come così, come un giovane, e quindi proprio mi vengono tutti dietro. Però devo dire che ci vuole prima di tutto una rivoluzione in profondità, che entra, che riscopre il piacere di partecipare. Ecco, grazie Stefano Polizzotto, grazie Emanuele Cusimano, grazie Giorgio Campo. E vorrei intanto vi auguro, vi faccio tanti in bocca al lupo per quell'attività. Grazie. Che vi state apprestando a svolgere, e vorrei ora passare a un altro argomento con Totò Marsala. Io ammiro Totò Marsala, lo ammiro perché salutiamo tutti, grazie. Intanto vi saluto, vi ringrazio della vostra partecipazione a qua in là, tra una novità e l'altra. Giorgio, ciao, saluta mio papà. Ecco, vi dicevo, Totò Marsala. Totò Marsala, lo ammiro perché da umile cittadino fa delle cose che dovrebbero tante volte svolgere, fare le istituzioni. Quindi lui si sostituisce tante volte facendo un lavoro improbo, veramente un grande lavoro, lo ha dimostrato andando alla BIT di Milano per cercare di portare avanti il nome di Cefalù, ma non soltanto, è un attento osservatore, tant'è che quando è venuto fuori una sua denuncia che la regione dimentica Cefalù, sul panorama c'era una pubblicità su Cefalù di 3-4 pagine, non so quante, ancora non le ho viste, ma Totò Marsala faceva notare che tra tutti i paesi turistici della Sicilia, Cefalù, che è uno dei poli principali della Sicilia, veniva dimenticato, completamente dimenticato. Ha detto anche, non vorrei che il mio intervento, e questo lo apprezzo anche, non fosse mistificato o portato nel tema della politica, perché io ho le mie idee, le intendo portare avanti, voterò per chi ritengo giusto che votare, però non voglio che le mie prese di posizione siano politicizzate. Però a parte questo discorso della che tu hai fatto un po' su un certo scandalo per quanto riguarda la regione che ha dimenticato di inserire Cefalù tra i poli turistici più importanti. C'è anche un'altra cosa: c'hai una squadra, presiede una squadra di basket di Serie C, ed è una squadra di basket composta quasi esclusivamente di cefaludesi, soltanto qualcuno c'è, che uno soltanto che non è di Cefalù, ma che si sono a poco, io ho visto soprattutto le ultime partite, quando non coincidono col volley, perché il volley lo vogliono anche molti i giornali pure, e ho notato che i ragazzi sono cresciuti enormemente, il vivaio è stato fruttuoso. Ecco, voi ora vi apprestate a fare anche i playoff, se vuoi fare un accento al discorso della dimenticanza da parte della regione e poi passare allo sport, lo puoi fare volentieri. Ma vabbè, la dimenticanza ormai ne hanno parlato tutti. Io sono malato nella mia città e non intendo guarire, e non permetto a nessuno di metterla da parte. Sì, vabbè, tutti hanno parlato, siamo stati alla BIT di Milano, abbiamo presenziato con uno stand la città di Cefalù, lì è finita, e continueremo, andremo a Londra a novembre. Certo, come ripeto, lo ripeto pure qua, io non mi sono fatta nessuna campagna elettorale, qualcuno da qualche suo cervello un pochettino scaduto ha cercato di mettere fuori questo. Sì, è vero, gran parte della città di Cefalù mi ha chiesto di candidarmi, e non solo a consigliere, e io ho preferito non candidarmi per un motivo, perché io la politica la faccio a modo mio, ovviamente il politico è con il quale fa qualche cosa per Cefalù. Io ho il mio sport, la pallacanestro, e non intendo assolutamente abbandonarla per un motivo ben preciso. Lì girano qualcosa come 100-130 ragazze, squadre, famiglie, quindi è una realtà ormai, ormai da 30 anni, insomma, anche più da 30 anni, che a Cefalù va avanti. E ovviamente fare politico significava abbandonare il mio sport, la pallacanestro. Quindi ho preferito continuare nella mia strada. Sì, vabbè, faccio l'editore, questo lo sanno tutti, ma non è questo, parliamo di sport, che secondo me ne dobbiamo un po' parlare. Sì, 4 anni fa ho iniziato a fare il presidente di questa società, e ogni anno con i miei dirigenti, che per me sono tanto, tanto, tanto importanti, i miei collaboratori, istruttori e i miei ragazzi, abbiamo iniziato un percorso, ho detto un percorso di crescita. Scusami, c'è stato anche l'apporto di una mecenate del basket, cioè del notaio Emilia Anastasi, Emilia Anastasi, che è moglie di sì, praticamente di un anno prima avevo intitolato la scuola basket a Nando Zannella, anche perché è stato il mio presidente, perché io inizio da giocatore quando avevo 13 anni, oggi ne ho 53, quindi sono nello sport da più di 40 anni. Mi appassiona la cultura sportiva, che è molto importante, e mi appassiona lo sport in genere. Sì, diciamo, ha creduto nel mio progetto, è venuto là, ci ha realizzato il campo, il telone, il parquet, senza il quale noi non potevamo andare avanti, e il suo contributo è stato ed è molto importante per il proseguo, diciamo, della mia società. Purtroppo bisogna anche dirlo, c'è un discorso in atto che la federazione ormai chiede tassazione da rabbrividire. Noi in 4 anni abbiamo pagato di solo tasse federali quasi 100.000 euro, cioè 25.000 euro l'anno. Quest'anno siamo arrivati a 26.000 euro, e parliamo di solo tasse federali. Poi ovviamente ci sono tutte le altre spese, insomma, noi abbiamo una gestione di quasi 100.000 euro l'anno per gestire questa società, ed è molto faticosa, ma alla fine con i miei dirigenti arrabattando, con gli aiuti, riusciamo, e con la passione, che riusciamo, diciamo, a chiudere sempre il campionato bene, e anche se quest'anno con il dissesto finanziario noi abbiamo avuto una mancata entrata, perché la scuola veniva a fare educazione fisica da noi, e ovviamente questo è venuto a mancare, ma lasciamo stare questo, non mi metto a piangere, certamente vado avanti. Quindi ogni anno abbiamo costruito un qualcosa. Dalla promozione abbiamo vinto il campionato, poi siamo passati alla D, abbiamo vinto il campionato, lo scorso anno abbiamo fatto la C2 e l'obiettivo era la salvezza, quest'anno l'obiettivo erano i playoff, ovviamente l'obiettivo era l'ottavo posto dei playoff perché entrano le prime otto e i ragazzi si sono presi pure il settimo posto, quindi sono stati grandiosi. Sì, è vero, sono tutti del nostro vivaio, noi abbiamo solo un giocatore di fuori che è Nino Sgarlata, che è un quarantenne che diciamo è stato accettato nel gruppo perché avevamo bisogno di una struttura fisica un po' più imponente e quindi su 12 ragazzi uno è di fuori. Non nego che continueremo a crescere, non so a che livelli, ma non ci fermeremo. Ebbene, ora affrontiamo i playoff, giorno 25 andiamo a giocare a Melilli, provincia di Siracusa. Ovviamente per noi i playoff, bene che si sappia, sono una festa che vivremo quei 40 minuti di partita a Melilli e poi giovedì a Cefalù e poi si vedrà. Ecco, questo è già lodevole, il fatto che la società sia sempre in crescendo, ecco, un crescendo rossiniano proprio, che i ragazzi, soprattutto questo è importante, che i ragazzi del vivaio sono cresciuti enormemente, questo dà maggiore fiducia che in una società sana le cose vanno bene, vanno per la migliore. Ora ricorderemo un po', parleremo un po' di questi ragazzi a conclusione. Volevo soltanto intanto ricordare che oggi alle 18, oggi domenica alle 18 al palazzo al palazzetto dello sport Marzio Cicoli e il Costa Verde Cefalù del volley pallavolo incontrerà la Stefanese, una partita importantissima ai fini della partecipazione ai playoff, e gradiremmo che i nostri radioascoltatori raggiungessero alle 18 il campo di Ogliacillo. Dico oggi domenica perché questa trasmissione viene replicata lunedì alle ore 13:15, quindi tutti oggi alle ore 18 al palazzetto Marzio Cicolo di Cefalù per vedere la Costa Verde Volley, una bella squadra veramente, che affronterà la Stefanese, anch'essa impegnata nella lotta per i play-off. Ecco, Toto Marsala, ecco, per concludere questo nostro discorso, dicevamo di ragazzi che sono cresciuti, facciamo qualche nome, io ho visto Terrasi. E allora, i ragazzi sono cresciuti tutti, va bene, parliamo già di Terrasi, che è un già un mai giocatore, Carmelo Monaco, anche se ha un'età avanzata, però si è cresciuto perché ha avuto delle responsabilità che se le è prese in toto ed è riuscito bene, e poi Carmelo Marsala, che è mio figlio, che è un ventenne, e Fabrizio Cefalù con le sue euforie riesce sempre a incantare il pubblico, Angelo Lombardo con le sue follie in senso Lombardo positivo, Alessandro Tumminello, un bravo player, un buon play, penetra in area, riesce Alessandro Tumminello che continua a crescere, Vincenzo Pirrone che è da due mesi che è fermo, che ha preso una brutta storta, ma anche lui quando era in campo diceva la sua, insomma tutti sono cresciuti. Ma la cosa bella è stata domenica abbiamo messo in campo due sedicenni, uno Andrea Campolattano, figlio del noto giocatore, l'abbiamo visto per qualche minuto, sì, in campo, ti spiego il perché, e ha segnato anche un canestro, segnato anche, ecco. Perché purtroppo poteva giocare di più, però aveva dimenticato il documento e l'arbitro diceva che era impossibile, poi all'ultimo l'arbitro ha capito e lo ha fatto entrare. E poi Alessandro Pirrone, questo è un altro giovane in crescita, anche se lui in diverse partite è già entrato e ha detto la sua. Insomma, stiamo crescendo, poi abbiamo un buon vivaio su cui stiamo lavorando, sta lavorando molto bene Carlos, Toto Di Bianca, Andrea Lusco, Giovanna Pirrone, insomma tutti, ognuno in quel campo dà qualcosa e questo è bello perché mi stimola, ci stimola e nessuno ci ferma, come ho sempre detto, e continueremo a crescere. È importante, è un buon gruppo, è un gruppo eccezionale. Vada sempre avanti. Intanto ci ricorda Angelo Arduino che domenica prossima CRM seguirà in diretta web e TV l'incontro di basket playoff tra Melilli e Cefalù, e quindi lo potremo anche seguire sul computer, questo incontro di basket che sarà, ritengo, solitamente Melilli, viene commentato da Ciccio Delise, Donne e Robby D'Antoni, e credo che anche anche in questa occasione dovrebbero essere loro i commentatori di questa partita. Toto Marsala, per concludere. Io concludo dicendo questo. Ho sentito parlare molti candidati politici e tutto. Tutti hanno fatto un programma, tutto parlano tranne che di sport. A me questo dispiace, sì, dico parliamo dei giovani, no, qua bisogna parlare veramente solo di sport, un programma per lo sport. Ci sono delle società sportive a Cefalù, ho sempre detto, dalla pallavolo a calcio, a calcetto, atletica leggera, nuoto, qualunque sport a Cefalù si pratichi è importante, perché come ho dichiarato lo sport non è solo mettere la palla dentro, fare una schiacciata di pallavolo o entrare, lo sport è sociale e se noi consideriamo che... Lontana soprattutto dai pericoli benissimo, di droga, ecco quello che io ho giurato di fare, quello di dedicarmi a questi ragazzi, e la cosa bella è che ci sono stati molti papà che mi hanno ringraziato di questo, perché hanno visto proprio un cambiamento dei loro figli educativi, da un punto di vista educazione. Allora continuo a dire ai politici, a coloro i quali amministreranno questa città, che lo sport è importante per la nostra città, per i nostri giovani, perché ripeto, lo sport non è solo sport, lo sport è anche sociale, quindi vorrei che qualcuno presentasse un programma serio anche per quanto riguarda lo sport. E noi passiamo il pallone ai politici, e intanto da Angelo Ardino e Mario Lombardo. Io voglio ringraziare tutti i media, da Cefalù Sport ad Angelo Arduino, a lei, che veramente vi prestate tanto per far conoscere i risultati sportivi e per lo sport di Cefalù, e questo è molto importante, io vi dico grazie. Certo, è un nostro dovere, è proprio tutto, dicevo, da Angelo Arduino e Mario Lombardo, una felice giornata ai nostri radioascoltatori. Abbiamo trasmesso qua e là tra una novità e l'altra.